Ciao e benvenuti all'ascolto di Radio Big World. Passeremo insieme qualche minuto e vi racconterò una storia che a me ha insegnato tanto. E vi confido che alle volte ciò che a prima vista sembra idilliaco, pastorale, gradevole, qualche volta, circostanziato nel tempo e nei luoghi, rivela una realtà che contiene una storia di sofferenza. Lui si chiamava Bruno perché alla nascita aveva tanti capelli neri e lunghissimi. Sua madre per questo l'aveva chiamato Bruno. Suo padre disse che il nome Bruno andava bene perché anche per lui quel nome era importante in quanto si rifaceva il nome di uno zio che era morto in guerra. Bruno crebbe come tanti bambini del suo tempo, tra la scuola, il lavoro, la parrocchia, con qualche fetta di pane e olio a merenda e quando andava benissimo con la fetta di pane, vino e zucchero per merenda. Poi adolescente e poi uomo scelse di non farsi una famiglia, ma si dedicò con tanto interesse al lavoro, dove tra gli intonachini era sicuramente il migliore della zona. Veloce, preciso e con risultati eccellenti, tanto che le pareti intonacate da lui erano così ben fatte che sembravano vellutate. Il capomastro muratore, quando qualcuno chiedeva di fare un piccolo restauro o rintonacare una parete della casa, ci mandava sempre Bruno, perché sapeva che Bruno avrebbe fatto tutto bene e in fretta. Poi, come il tempo che passava, anche le attività di Bruno mutarono e si indirizzò verso una vita estremamente individualista, divenne asociale e, come si diceva allora, aveva i suoi chiodi fissi. Un giorno il suo televisore in bianco e nero si guastò. Bruno, che nel frattempo aveva ricevuto il battesimo popolare col nome di Ringo, chiamò il tecnico perché riparasse il suo televisore. "Vedi", disse Ringo, "io ho mosso questo pernio che è sul retro del televisore e da quel momento il televisore ha smesso di funzionare. Ora, tu che sei il tecnico, muovi il pernio in senso contrario e il televisore tornerà a funzionare." Il tecnico agì sul pernio e su altri, ma il televisore non ripartì perché era bruciato il trasformatore di riga. Ringo non se ne curò più di tanto perché secondo lui, dopo aver detto la sua opinione, spettava al tecnico risolvere il problema. Bruno era tante cose. Se lo incontravi per strada, lui aveva sempre il suo zaino sulle spalle con le sue cose dentro. Se lo salutavi, rispondeva al saluto, ma non potevi invitarlo a prendere un caffè insieme, perché offrirgli un caffè per lui significava fargli l'elemosina. E l'elemosina lui non la voleva. Ringo, come tanti pensionati, si recava alla posta per riscuotere la pensione. E quella volta che l'importo della sua pensione era aumentato per gli scatti di contingenza, rifiutò di ricevere più soldi rispetto al mese precedente, perché gli sembrava che l'impiegato volesse fargli l'elemosina. Ci volle tanta pazienza per fargli capire come stavano le cose e alla fine accettò tutto quanto gli spettava. Bruno era un uomo libero. Chi passeggiava lungo l'argine dell'Arno andando verso Boccadambra si imbatteva durante il percorso in un piccolo rifugio fatto di frasche, cartoni e teli di plastica. In terra un vecchio materasso. Quello, clima permettendolo, era il giaciglio sotto le stelle di Ringo. Invece, un giorno si sdraiò su una panchina in piazza Vittorio Veneto e si vedeva che stava male. Chiamarono l'ambulanza. Dopo molte rimostranze agli infermieri, accettò di essere preso, messo sull'ambulanza e accettò di essere ricoverato in ospedale. La sua vita di colpo cambiò. All'ospedale, oltre a curarlo, gli fecero il bagno in una vasca con acqua calda. Lui disse a chi andò a fargli visita in ospedale che il bagno caldo era stato una cosa bellissima e che aveva però un ulteriore piccolo desiderio. Gli sarebbe piaciuto avere un paio di pantofole. Gliele portò, eleganti e confortevoli. E lui, Ringo, le teneva come una cosa preziosa nel suo comodino. Nonostante fosse molto malato, di tanto in tanto scendeva dal letto, indossava le sue pantofole, faceva due passi e poi, finito dalla spozzatessa, rimetteva con cura le pantofole nel comodino e si abbandonava sul letto. Il cancro lo stava distruggendo. E una mattina, da solo come aveva sempre vissuto, prese il volo verso il cielo degli uomini liberi con un solo rimpianto: abbandonare le sue bellissime pantofole che non avrebbe indossato mai più. Vi ho raccontato tutte cose realmente accadute e chi si ricorda di Ringo gli rivolgo un pensiero di saluto. L'unica cosa di cui non sono certo è perché gli avessero messo nome Bruno. Ma questo non è molto importante. Se volete, ci sentiamo la prossima volta su Radio Big World per passare qualche minuto insieme ricordando e pensando. Ciao, caro ascoltatore.